Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, bentornati a Summertime e noi quest'oggi abbiamo il piacere di andare subito a Torre del Lago in questa magnifica cornice che diede i natali a Giacomo Puccini e che ospita una delle grandi eroine di questo musicista. Abbiamo il piacere di avere qui in persona a Summertime Madama Butterfly, ovviamente. Stiamo scherzando, abbiamo con noi Donata D'Annunzio Lombardi, che è appunto il soprano che interpreta Cho Cho San, ovvero Madama Butterfly. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che cosa vuol dire interpretare Madama Butterfly a Torre del Lago? Beh, se noi cantanti d'opera siamo considerate un po' delle vestali e un po' delle sacerdotesse, devo dire che siamo proprio nel tempio che ha ispirato a Giacomo Puccini le note, la maggior parte delle sue opere, e quindi ovviamente descrivere questa atmosfera è anche difficile, è preferibile evocarla proprio sul palcoscenico cantando le sue emozioni. Ecco, che cosa vuol dire poi per un soprano? Una grandissima sfida, perché le arie più difficili sono nel secondo atto. Sì, tra i ruoli più difficili, se non addirittura il più complesso, il più difficile. Beh, anche nel primo non scherziamo, soprattutto dal duetto d'amore in poi, che è il duetto, parlo dei due sposi, di Butterfly e di Pinkerton, che per quanto sia così di stampo abbastanza europeo, ha una orchestrazione con delle idee, con dei profumi, con delle impressioni, insomma, abbastanza impegnative vocalmente, sia per il tenore che per il soprano. Poi alla fine di questo grande duetto abbiamo un secondo atto che vede veramente interamente Cho Cho San protagonista, e che rappresenta, così mi viene in mente a volte, un'interminabile quasi via crucis, perché sappiamo di quanto ci sia, quanto sia protagonista di tutta la storia questa attesa spasmodica, questo accanimento amoroso da parte di Cho Cho San. E poi abbiamo il terzo atto, dove c'è un momento di respiro per questi squarci sinfonici, ma poi torna ancora la piccola grande Cho Cho San con questo tutù piccolo e Dio, che termina come terminano tutte le grandi tragedie. Che cosa secondo lei apportò Puccini all'opera? Il fatto di dare queste trame così moderne, la fanciulla del West, Madama Butterfly, che è appunto una ragazza giapponese che si innamora di un americano. Questo fu la sua innovazione maggiore. E dal punto di vista musicale invece? Beh, proprio da Madama Butterfly, proprio dall'inizio del Novecento, dal 1904 in poi, il mondo cambia, e non solo si prepara alla grande guerra, purtroppo, ma cambia in maniera vorticosa anche tutta la letteratura e le arti espressive, per cui Puccini è un uomo estremamente attento al suo tempo, e quindi soprattutto da Butterfly, e poi ritroveremo naturalmente anche in Turandot, c'è la ricerca di un esotismo, di un mondo, questo Oriente che affascina, perché è così lontano ma finalmente così raggiungibile. E poi ecco, lei ha nominato Fanciulla del West, che addirittura entriamo nel linguaggio cinematografico. Soprattutto nella grandezza di Puccini è rintracciabile questa rapidità, questa esattezza, questa profondità, questa intensità, ma sempre con un ritmo che lascia, abbandona le famose digressioni del romanzo ottocentesco per proprio vivere la velocità di un tempo moderno, quindi le prime macchine, insomma, ci lasciamo alle spalle la rivoluzione industriale ed entriamo proprio nel mondo nostro contemporaneo. Sappiamo l'amore infinito che aveva per esempio per le automobili, no? Ecco, e così era anche nelle sue opere, lui aveva bisogno di verità, però non faceva altro che ripetere tagliamo, ecco, e poi lo dice anche nella Bohème, la brevità a gran pregio. Che cosa vuol dire per lei? Quante ore si è preparata? No, perché noi veniamo a teatro, sentiamo un soprano che canta, da profani diciamo bello, sì, però mi sembra che in quel passaggio, non so, alla quante ore lei si è preparata per andare a Torre del Lago a cantare Madama Butterfly? Guardi, le svelo così un piccolo segreto. Avevo 7 anni quando cominciavo a sentire, ho iniziato con la Scotto, con Renata, la grande Renata Scotto, e i miei mi regalarono questo disco, il primo disco che ho ricevuto, e quindi stavo lì incantata. E allora poi quando dopo qualche anno mi portarono a vedere la Madama Butterfly, io cantavo tutte le note già a memoria, perché rimasi folgorata dalla musica di Puccini. Quindi emotivamente è un bel periodo. Insomma, dai 7 anni, adesso ne ho 15 netti, quindi faccia il conto, ecco. Allora, ringraziamo e ringraziamo Donata D'Annunzio Lombardi anche per la simpatia. Grazie a Ricordiamo voi. che sarà Madama Butterfly questa sera a Torre del Lago al Festival di Puccini, dove questo grandissimo artista nacque, scrisse molte delle sue opere. Sappiamo poi, tra le altre cose, che Madama Butterfly fece fiasco alla È prima al Teatro vero, alla Scala di Milano. è vero, vero, vero. E non solo perché appunto c'era questo linguaggio nuovo, ma per esempio il Grande Montale era l'unica opera che non riusciva ad amare profondamente. Lo ha anche scritto, e questo vabbè, farebbe poi pensare, o ci porterebbe poi ad un'altra ulteriore digressione. Però è interessante vedere proprio quello che diceva lei, il fatto che veramente nasce un linguaggio nuovo legato però a temi assolutamente ancestrali e primordiali, perché insomma, veramente la maternità, l'aspettativa delusa, tradita, così quasi come una tragedia greca, è un motivo molto antico, con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Forse Montale non aveva capito l'animo delle donne, che ci un pochino ci riconosciamo tutte in Madama Butterfly. È vero, Grazie. grazie a voi per tutto. E noi andiamo al premio letterario Caccuri in Calabria, dove questa sera si scoprirà chi ha vinto dei tre finalisti. I tre finalisti che duettano, anzi sono, insomma, che duettano appunto sulla saggistica. Abbiamo con noi Pino Aprile, che insieme a Pier Giorgio Morosino e a Pier Giorgio Oddifreddi si spartiranno questo premio. Giornalista e scrittore, ha scritto Terroni. Buongiorno, buon pomeriggio Pino. Di che cosa parla il tuo libro? Anche se, insomma, voglio dire, di quali Terroni parla il tuo libro a questo punto? Di quelli che sono stati formati con un sistema efficientissimo creato nel sud d'Italia a mano armata 151 anni fa e perpetuato con leggi squilibrate. L'Italia è stata costruita così, cioè con la creazione di una colonia interna, ovvero di una parte della popolazione del territorio, che dovevano essere privati della capacità di produrre merci e di essere solo clienti, consumatori di merci altrui. Era il sistema con cui tutte quelle che oggi sono grandi potenze industriali hanno costruito la loro fortuna. Il guai è che continua oggi, dopo un secolo e mezzo. Al sud questo, comincia a non andare più bene. Non lo si sopporta più e prima l'Italia si sbriga a diventare più equa, più giusta, più equilibrata e prima esce dalla crisi in cui è, perché è vero che siamo in una crisi mondiale, che riguarda tutti, ma è vero che noi ci mettiamo del nostro perché continuiamo ad andare avanti con un sistema ottocentesco, quindi assolutamente anacronistico. Pino, scusami, allora tu stai parlando praticamente di quello che avviene all'Unità d'Italia e del fatto che praticamente si sceglie non il federalismo e quindi si sviluppano i briganti, è questo che vuoi dire? Ma sì, in realtà l'Unità d'Italia è nata a momenti quasi per caso, voglio dire, Cavour non è che la volesse, gli sarebbe bastato il Regno del Nord. Poi questa costruzione è frutto della spinta di alcuni potenti, visionari, idealisti nostrani e degli interessi soprattutto della Gran Bretagna. alla fine l'Italia è stata fatta. Meno male, no? Meno male perché è stata fatta, perché cadono le frontiere. Ogni volta che cade una frontiera, il mondo diventa più ricco, più libero e più felice. Ma nel caso dell'Italia è stata buttata giù la frontiera, ma non è stata fatta l'Italia, perché al momento dell'unità nord e sud, come hanno dimostrato il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Ufficio Studi della Banca d'Italia, non erano affatto distanti economicamente, erano almeno alla pari, ma il sud aveva i più grandi stabilimenti siderurgici d'Italia, erano qui in Calabria, li hanno distrutti, sfasciati e svenduti come ferrovecchia a un ex sarto, ex garibaldino e già pregiudicato per truffa allo Stato, e quindi noi ci teniamo le nostre tradizioni portate in Parlamento. Quindi Pino, tu stai dicendo che alla fine la gente del sud ha avuto uno svantaggio rispetto all'unità d'Italia, quindi non è che c'è solo la Lega Nord che dice che loro stanno pagando per tutti. Dici, a noi... Ma la Lega Nord dice un sacco di fesserie. No, basta vedere il bilancio, ma indipendentemente della Lega Nord, cioè tu ci stai dicendo a noi, al sud questa ferita è stata fatta molto prima. Sì, la questione meridionale non esisteva, nasce con l'unità d'Italia, quando con le armi vengono distrutte le fabbriche del sud, viene razziato e portato al nord l'oro del sud e i soldi dei meridionali vengono spesi al nord. Già un secolo fa Francesco Saverio Nitti, presidente del Consiglio, tirò fuori le carte e le pubblicò. Al momento di fare cassa comune, cioè tutti gli stati preunitari mettono i loro soldi nella cassa che adesso è dell'Italia Unita. Bene, il 66% dei soldi di tutta l'Italia erano dei meridionali, tutto il resto dell'Italia messo insieme, dallo Stato papalino fino al Piemonte, Lombardo-Vento, eccetera, assommava al un terzo dei soldi. La Lombardia mise l'1%. Ma tutti quei soldi vennero spesi solo al nord per fare strade, ferrovie, canali, finanziare fabbriche, eccetera, eccetera. Tutto fatto con i soldi del sud. Il sud si ribellò e allora oltre i soldi ci rimise anche il sangue. La questione meridionale è figlia di un'unità fatta male. E quello, prima vabbè, quello si ad aggiustarla e meglio se non si fascia di nuovo. Allora ringraziamo Pino Aprile che ci ha illustrato di cosa parla questo volume Terroni PM Edizioni, in cui si rivisita da un altro punto di vista, non da quello lì ufficiale, la nostra storia, e c'è anche una grandissima denuncia appunto contro il nord. Grazie Pino. A voi. E come dicevamo, tra i finalisti del premio Caccuri, oltre a Pino Aprile, c'è Pier Giorgio Morosini e Pier Giorgio Odifreddi, con una via di fuga. Buon pomeriggio, Odifreddi. Buongiorno. Allora, dopo che ci ha deliziato con il Vangelo secondo la scienza, il matematico impertinente, perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, dopo essere diventata la bandiera dell'ateismo in questo paese, di che cosa parla una via di fuga? Questa volta di matematica, in realtà più precisamente di geometria, il secondo volume di una trilogia che sarà conclusa poi quest'autunno, e in realtà è un tentativo di far vedere come la geometria si avvicina all'arte, all'architettura, e quindi a tante cose che in realtà interessano la maggior parte della gente, senza che esse sappiano che in realtà stanno facendo matematica in maniera obliqua. Per lei c'è sempre questo problema in Italia, nelle scuole italiane, per cui la matematica non è abbastanza insegnata, si privilegiano magari la letteratura, le materie letterarie, e noi abbiamo un deficit, almeno i nostri alunni hanno un deficit nei confronti degli altri paesi? Certamente, siamo purtroppo negli ultimi posti delle classifiche in realtà mondiali, quindi non soltanto europee, no? Lei citava prima alcuni libri che non parlano di matematica, però io credo che ci sia una connessione, ed è per questo anche che scrivo quell'altro tipo di libri, cioè la matematica richiede una mentalità razionale, razionalistica, e tante altre materie umanistiche, a partire ovviamente appunto dalla teologia e dalla religione, fanno il contrario, quindi certamente è difficile essere dire, servire due padroni, come diceva il Vangelo, per l'appunto, Dio e Mammona, e se si serve alla ragione poi diventa difficile seguire quell'altra, no? E quindi io credo che un po' meno forse materie umanistiche, in particolare sicuramente meno ore di religione, e un po' più materie scientifiche forse ci aiuterebbero a colmare questo deficit, questo gap, anche perché, che ci piaccia o no, non viviamo più nel Medioevo, dove ovviamente la teologia era fondamentale, bensì viviamo in una società, in una civiltà tecnologica in cui invece la scienza è fondamentale. Ecco, ma c'è sempre questa cosa, no? È meglio quando una persona deve decidere magari se un figlio deve andare allo scientifico o al classico, e magari ci sono questi ragazzi che hanno un'intelligenza matematica, però i genitori dicono no, ma si va al classico perché lui impara il ragionamento, ma insomma anche il ragionamento scientifico e matematico non è da sottovalutare. Solo non è da sottovalutare, ma è l'unico ragionamento che esista, non è che ci siano due o tre tipi di ragionamento. In realtà l'umanesimo fa altro e fa cose, tra l'altro, che non vanno assolutamente abolite, ci mancherebbe altro. Però quest'idea che la vera cultura sia la cultura classica è un'idea ormai anacronistica, è la vecchia idea di quei tromboni, se posso così dire, di Croce e Gentile, che pensavano appunto, no? Anche tra l'altro gli inglesi, i quali pensavano che si poteva governare il mondo, cioè l'impero, il Raj, semplicemente studiando le odi di Pindaro a memoria. Se avessero studiato magari un po' la cultura indiana, per esempio, non avrebbero fatto tanti danni, no? In quei luoghi. E quindi oggi sì, che sappiamo queste cose, forse sarebbe ora di cominciare a ridimensionarle. Va benissimo studiare il greco, così come va benissimo studiare il sanscrito o il cinese, per dire, no? Però nella nostra società servono anche altre capacità, e la ragione purtroppo sta da un'altra parte. E quindi bisogna fare più matematica nelle scuole. Questo bisogna, secondo me, bisogna fare più di tutto in realtà, anche se ormai le riforme vanno in direzione contraria, però sicuramente c'è una penalizzazione. Basta pensare ad esempio che nel liceo scientifico, quindi non in quello classico, in quello scientifico, no? Addirittura continuano a sopravvivere questi indirizzi con il latino, non si è avuto il coraggio di eliminare appunto il latino a favore appunto di più ore di materie scientifiche in una scuola che si chiama scientifica. Questo già la dice lunga, mi sembra. Insomma, abbiamo capito esattamente il punto di una via di fuga, perché lei ci dice come tutto è riconducibile alla matematica, anche le cose che noi non avremmo mai pensato, in questo caso la geometria. Ringraziamo Pier Giorgio Di Freddi. Grazie. Una Grazie via di fuga di Mondadori, premio finalista, premio letterario Caccuri in Calabria questa sera. Grazie professore. Grazie a voi, arrivederci. Tuttavia, siccome l'oracolo non poteva mentire, mi sono messo alla ricerca di tutti quelli che passavano per saggi, con la speranza di scoprire il senso della parola divina. E noi adesso andiamo a Velia Teatro 2012, nell'area archeologica in provincia di Salerno, dove viene messo in scena il dramma del filosofo per eccellenza. Si tratta di Socrate, l'uomo e il cittadino, e Socrate viene interpretato da Bob Marchese. Buon pomeriggio, Bob. Buon pomeriggio. Che cosa succede sul palco di Velia Teatro? Questa sera ci sarà la lettura dell'apologia di Socrate e la proiezione in anteprima nazionale, l'ultima notte di Socrate, che è stato filmato, che è praticamente la morte del grande filosofo greco. Ecco, filosofo greco che fu accusato, lo ricordiamo, tanto per rispolverare un po' le conoscenze scolastiche, fu accusato di corruzione dei giovani, no? Corruzione dei giovani, sì, secondo l'accusa di Meleto, Licone e Anito, Socrate non credeva negli dèi, e credeva ad altri dei che non appartenevano alla città né alla cultura della città, e che di conseguenza i giovani crescevano in malo modo. E questa è una delle accuse più gravi che gli viene rivolta. Una delle accuse più gravi che gli viene rivolta, e noi ancora non ci capacitiamo come lui scelse poi di bere la cicuta e non l'esilio, perché quello, o anche di scappare, perché poi molti dei suoi allievi, no, l'avrebbero voluto. Sì, Critone in particolare e Papa Onodoro avevano addirittura si pronunciavano in difesa del filosofo, ed erano disposti a pagare una multa di ben 30 mine, corrispondenti a circa 5-15 a 1500 dracme, era una cifra spaventosa. Si facevano garante, Critone era disposto ad aiutarlo e lui rifiutava per essere ligio alle leggi. Tu sei solo sul palcoscenico? No, c'è con me Mattia Mariani, attore che ci ha seguiti anche questi anni, che fa la parte di Meleto qui nell'Apologia, e nel film invece sarà Critone. Quindi voi lo trasformerete anche in un film? Esatto, sì, è già affrontato, sì, e verrà proiettato questa sera dopo la lettura dell'Apologia. Io vorrei che tu adesso un attimo annullassi un po' le voci che sentiamo di sottofondo, creiamo un po' di atmosfera e praticamente ti concentri, entri dentro il protagonista. Se mi uccidete farete più danno a voi che a me. Un altro come me non vi nascerà facilmente, conviene dunque che mi risparmiate. Io ora sono ben lontano dal difendere me stesso come qualcuno ha potuto credere. Parlo per voi, che non facciate uno sbaglio condannandomi. Mi pare che il Dio mi abbia imposto alla città affinché, stimolandovi, persuadendovi e rimproverandovi uno per uno, non cessi mai di starvi appresso per tutto il giorno, ogni giorno, in ogni tempo. Un altro come me non vi nascerà facilmente, cittadini. Ascoltatemi, risparmiatemi. Ecco. Allora, ringraziamo Bob Marchese, che abbiamo detto interpreta Socrate, l'uomo e il cittadino, a Veglia Teatro 2012 e quindi in provincia di Salerno. Consigliamo a tutti di andare veramente a vedere questo spettacolo che abbiamo sentito, ha poi un film subito dopo. Sì, certo. Ok, grazie Bob. Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro. E noi adesso andiamo al Teatro Greco di Taormina, in questa splendida cornice. Ci sarà un balletto speciale perché si porta in scena la Carmen, ma non cantata, appunto danzata, con le coreografie di Freddy Franzutti. Buon pomeriggio, Freddy. Salve, salve, buon pomeriggio. Allora, una Carmen danzata per quale motivo? Noi siamo abituati, no, a vedere la Carmen cantata dall'opera di Bizet. Immagino che le musiche ne siano sempre di Bizet. E come si articola lo spettacolo? Beh, diciamo, Carmen anche nell'opera lirica è un ruolo legato al movimento, perché la seduzione e la sensualità sono legate al corpo, quindi non è così, diciamo, assurdo immaginare una Carmen che trascende la parte vocale e diventa invece una coreografia. Oltretutto non sono solo il primo, forse solo l'ultimo, però quasi tutti i grandi coreografi hanno trasposto l'opera di Bizet nei passi della danza. E quindi anche questa sera, cioè anche quella di 10 sera, vedremo una Carmen danzata. Tu hai fatto con il Balletto del Sud, no? Con questa tua compagnia, una Carmen ambientata, tu dici, in una Spagna però non proprio letta dal punto di vista autoctono, cioè vuoi dire non è importante che sia a Siviglia piuttosto che a Madrid? No, voglio dire che la Carmen in sé, come testo prima di tutto, nasce dalla pena di Prosper Mérimée, che era un francese, e poi la musica è fatta da Bizet, che era un francese, quindi non è una Carmen prodotta da spagnoli, ma è come il turista, è come la persona fuori dalla Spagna vede la Spagna, quindi che esalta i colori della Spagna stessa per farla diventare un po' una cartolina. Questa era la forza della Carmen dell'opera, e quindi ho cercato di mantenere nel balletto una Carmen vista dall'esterno, dove quindi i caratteri del rosso, il nero, la gelosia, il delitto passionale, la magia, sono tutti esaltati perché li vediamo da un punto di vista esterno. Quanti ballerini sono in scena? Sono 16 ballerini e poi Carmen, interpretato da Elena Marzano, il ruolo principale, Don José, interpretato dal primo ballerino cubano Carlos Montalbán, il ruolo del torero Escamillo da Alessandro De Ceglia, il ruolo del Zuniga, il capitano delle guardie, da Angelo Egarese, e Micaela, la prima fidanzata, il primo amore di José, da Jennifer Delfante. Questi sono i solisti, e poi c'è un corpo di ballo di 16 ballerini, quindi un organico abbastanza nutrito per affrontare un palcoscenico così grande. Ecco, che cosa succede? Quando tu dici è vista dall'esterno, è vero, cioè noi sappiamo che un pochino, no, la Carmen rappresenta per i francesi quello che potremmo dire per i tedeschi rappresenta l'Italia, no? Queste terre del sud di Europa. Tu però non mi sembri, senza questo assolutamente essere un insulto, ma anzi un pregio, non mi sembri un uomo del nord, no? Quindi come ti senti magari in questi ruoli in cui devi interpretare come viene visto una persona del sud Europa da una persona del nord Europa? Ma sicuramente questo si chiama fascino di esotismo, il luogo lontano diventa luogo affascinante, no? E quindi era questa l'idea di mantenere il carattere di questo, della Spagna, proprio intesa come un'immagine che non sia olografica, ma che comunque denoti delle connotazioni che fanno fascino sulla persona non del luogo. Quindi questo era l'obiettivo principale. E poi l'idea era di ambientare una Carmen proprio nella fine dell'Ottocento, quindi non con una trasposizione temporanea che portasse la Carmen ai nostri giorni, ma che rimanesse appunto una caratteristica ottocentesca che era proprio vista nell'esaltazione del ruolo del torero come uomo di grande seduzione e fascino, il soldato che diventa appunto il giovane soldato José arruolato da poco, e Carmen, questa donna che soprattutto inneggia alla libertà, libertà non solamente morale ma nei valori proprio di etica, perché lei è una rivoluzionaria e vuole la libertà del proprio popolo. Ecco, i costumi come sono quindi? I costumi sono quasi tutti ricostruttivi della prima del 75, quindi abbiamo preso delle stampe antiche del 1875 della prima dell'opera e le abbiamo trasportati in chiave ballettistica, però diciamo la connotazione quindi è romantica e ricorda i costumi dell'opera, è una trasposizione proprio dell'opera in danza. Questo è il primo caso, questa coreografia ha questa particolarità, perché l'appassionato d'opera o chi conosce bene il libretto la riconosce in interamente, quindi non abbiamo tagliato l'atto della montagna, che poi sempre nel balletto non c'è, o i ruoli secondari come appunto Zuniga e Micaela. Quindi è la trasposizione dell'opera nella danza in tutti e quattro gli atti. Quindi anche l'area di Micaela magari mentre sta persa nella montagna, ecco, era questo che... Esattamente, quindi vedremo l'area della Micaela, perché lo stesso Bizet crea delle suite musicali con i temi principali dell'opera e per integrare il tappeto musicale, per riuscire a costruire tutto il balletto, ho chiesto aiuto agli altri compositori francesi che nella fine dell'Ottocento hanno guardato alla Spagna con lo stesso intenzione appunto di fascino esotico, quindi sono Albéniz, Massenet e Chabrier, che sono i tre compositori che nello stesso momento di Bizet hanno creato una composizione per la Spagna. E quindi il tappeto musicale alterna i quattro compositori francesi, quindi non si ha una grande, cioè la melodia funziona, no? Perché non si ha un grande balzo, diciamo, di stile, anche se le mani sono quattro mani differenti, per ricreare appunto il tessuto composito musicale dello spettacolo. Grazie Freddy, allora ricordiamo coreografia di Freddy Fananzutti che porta in scena questa Carmen al Teatro Greco di Taormina, abbiamo sentito con la sua compagnia il balletto del Sud, grazie. Grazie a voi, vi aspetto, buona serata. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona serata da Elisabetta Fiorito.